Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Come sempre vi ricordo la mail alla quale scrivere per segnalare i vostri casi. La mail è unabusoalgiorno@radio24.it. Ma vi ricordo anche il mio blog. Molti di voi lo frequentano, lo leggono e questo mi fa un enorme piacere. Il blog si chiama Guardie o Ladri, lo trovate sull'home page del Sole 24 Ore oppure attraverso un motore di ricerca. Ebbene, alcuni giorni fa ho dedicato un lungo post alla camorra imprenditrice e segnatamente questo faceva seguito all'ordinanza cautelare con la quale il GIP, quindi il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, Raffaele Piccirillo, ha chiesto, come voi sapete, l'arresto del sottosegretario all'economia Nicola Cosentino per concorso esterno per associazione mafiosa. Sapete che Cosentino era, e forse è ancora, candidato in pectore per ricoprire il ruolo di candidato governatore della regione Campania per il Partito della Libertà. Ebbene, ho scritto un lungo post in cui spiego come la camorra, indipendentemente dalla destra, dalla sinistra, se ne frega, scusate la volgarità, della politica, l'importante è fare affari. Ebbene, leggendo questa lunghissima ordinanza di 351 pagine, mi sono imbattuto in un caso molto molto curioso, vale a dire, è per paradosso, di un sindaco che ha resistito al tentativo, diciamo così, di abusare della pazienza appunto della pubblica amministrazione. Da parte di chi? Da parte del pubblico e del privato che insieme nel consorzio Caserta 4, consorzio per lo smaltimento e la gestione dei rifiuti, voleva convincere attraverso una serie di ordinanze, attraverso una serie di quella che oggi si chiama la moral suasion, vale a dire questa persuasione morale, voleva convincere il sindaco, questo sindaco di Cancello ed Arnone, un piccolo comune in provincia di Caserta, ad abbandonare la gara che lui aveva indetto per lo smaltimento e la raccolta dei rifiuti e darsi anima e corpo a questo consorzio Caserta 4. Peccato che, secondo le dichiarazioni dei vari pentiti, delle varie testimonianze raccolte dalla Procura della Repubblica di Napoli, dietro il consorzio Caserta 4 e non solo, ci fosse niente po' di meno che la camorra, il clan Bidognetti, quindi parliamo dei casalesi di Casal di Principe. Quindi, consapevolmente o inconsapevolmente, adesso ce lo faremo raccontare, l'avvocato Raffaele Ambrosca, ex sindaco di Cancello e Arnone, si, come dire, opponeva ad un'ingerenza, ad un abuso, e faceva valere un principio giuridico. Nella raccolta e nello smaltimento dei rifiuti decido io, la gara la faccio io come dico io. Scusate la lunga premessa, ma era fondamentale per capire di ciò di cui stiamo oggi parlando. Ed è per questo che do con piacere il buongiorno all'avvocato Raffaele Ambrosca. Buongiorno avvocato. Buongiorno a lei. Allora, ho ricostruito bene o ho ricostruito male quello che è accaduto agli inizi degli anni 2000 quando lei era sindaco? Mi corregga in tutte le parti che ho sbagliato. Guarda, lei ha ricostruito, credo, perfettamente. D'altra parte ci sono gli atti che parlano fin troppo chiaro. Il punto è che il contrasto alla camorra, devo precisare per non essere poi definito eroe e soltanto per aver fatto il mio dovere, era del tutto inconsapevole, perché io ho assolutamente tentato di tutelare quelli che erano gli interessi del comune di Cancello Arnone. Benissimo, allora, avendo detto che la ricostruzione era fedele, quindi lei, come ci ha dichiarato, non sapeva che dietro quel consorzio ci fosse anche, ripetiamo, sempre secondo le dichiarazioni che non hanno valore di prova ma devono essere provate in un'aula del tribunale, ci fosse appunto dietro la camorra, lei ha fatto valere un principio. Però io leggo appunto dall'ordinanza, per esempio a pagina 165 per la prima volta compare il suo nome, io leggo da pagina 165 fino a pagina 171, quindi ben sei pagine, cari ragazzi, radioascoltatori, con le quali i magistrati ricostruiscono questa incessante, continua tentativo di persuaderla ad abbandonare la gara, ad abbandonare quella impresa che lei aveva individuata. Insomma, tutto questo stellicidio di lettere, letterine, il subcommissario che interviene, caro Ambrosca cedi, caro Ambrosca cedi, caro Ambrosca cedi. Ecco, lei come lo ha interpretato? Non le si è accesa una lucina, diciamo così? Non ha sentito puzza di bruciato, in altri termini? Guardi, noi per comprendere bene questa vicenda, almeno per la parte che mi riguarda, bisognerebbe tratteggiare un attimo lo scenario. Noi ci muoviamo in un ambito temporale nel quale io bandisco una gara legittimamente per l'appalto dei rifiuti e nel frattempo arriva il regime commissariale, arriva, diciamo, la proprietà dei rifiuti diventa del commissario regionale. Ecco, questo, diciamo, in qualche modo è lo scenario. È lo scenario. Certo. Ora addirittura mi pongo, attraverso tutte queste pressioni che mi arrivano dagli enti istituzionali, mi pongo il problema se sono oppure no fuori legge io. Certo. Mi pongo da questo punto, da questa ottica, e dico: ma che sto combinando? Sto ragionando secondo i dettami della legge oppure sto debordando e andando a far pensare a qualcuno che forse sono io che voglio favorire qualcuno? Ecco, per far capire ai nostri radioascoltatori, l'ex sindaco di Cancello d'Arnone è un avvocato, quindi insomma di legge ne mastica, le leggi sa interpretarle, ma se voi andate a leggere questa ordinanza è proprio un continuo stillicidio in cui è facile, Ambrosca, lei ha ragione, è facile cadere in questo dubbio, dice: insomma, ma sono scemo io o sono scemi gli altri? Perché questo, il dubbio viene, insomma, no? Ma il viene perché c'era un consorzio obbligatorio, sottolineo questo termine, appunto il C4, appunto, vigendo il regime commissariale, questo consorzio era assoggettato per la parte appunto della che riguardava il commissariamento, era assoggettato alla trasmigrazione della proprietà dei rifiuti, sicché i comuni che facevano parte obbligatoriamente di questo consorzio dovevano conformarsi a questa nuova disposizione, a questo regime commissariale. È evidente che in tutto questo scenario tu devi porti il problema, però poi io devo dire anche la verità, un po' mi ha aiutato molto il fatto di svolgere questa attività che svolgo, un po' ho avuto la fortuna di avere qualche collaboratore, in questo caso la dottoressa Trimarco, segretario comunale dell'epoca, che insomma con la quale di concerto abbiamo deciso di tenere duro. Ecco, ma mi spieghi una cosa, poi ad un certo punto però tenere duro, questo qui io lo chiamo proprio per questo, perché le fa onore, no? Insomma, salvaguardare i principi giuridici che dovrebbero reggere questo benedetto maledetto paese, ma poi però alla fine lei cede. Ecco, perché cede? Ma cedo perché mi arriva il telegramma del prefetto, mi arrivano telefonate dal comando provinciale dei carabinieri, mi arrivano il sequestro degli atti, mi arriva la lettera di fatti che prima mi invitano e poi mi diffidano. Insomma, in qualche modo io a questo punto dico, probabilmente ho ragione, insisto su questo, sono convinto, tant'è che la questione è durata un po' di tempo, non so quanti giorni o quanti mesi, e mi sono ritrovato sul territorio con due ditte, siamo diventati un caso nazionale, la ditta che aveva vinto l'appalto ci ha fatto causa, che poi è arrivato fino al Consiglio di Stato. E chi ha vinto poi? Ha vinto il Comune per la parte, ha vinto la ditta nei confronti della società Eco4, ma ha vinto comunque, il Comune è stato estromesso dalla causa in quanto parte, in qualche modo, non certo, parte offese, se vogliamo dire. Certo. Ma comunque sia, noi in quel momento avevamo questo tipo di atteggiamento, e allora guardarsi intorno e verificare che c'era tutta questa ambaradam che giocava contro di noi, ti chiama questo, ti chiama quello, ti chiama quell'altro. E alla fine lei ha ceduto. Allora, ricordando che l'avvocato Raffaele Ambrosca è oggi capogruppo di minoranza per il Partito delle Libertà nel suo comune, io le chiedo, però avvocato Ambrosca, siamo tutti quanti uomini di mondo, io perché ne scrivo da anni, lei perché ci vive sul territorio, ma insomma la puzza di camorra lì, è possibile che non si sente oltre a quello dei rifiuti e quindi l'ingerenza poi di Riffa o di Raffa nella gestione dei servizi pubblici? Voglio fare due osservazioni. Prego. La prima è che non parlare di camorra su quel territorio come dire, insomma, dire fesserie, quindi certo. E quindi un fatto è un dato che non scopro certamente io, certo. Non ho bisogno della mia conferma per scoprirlo. Però d'altra parte voglio dire che parlare di immondizia è uguale a come parlare di Camorra in certi aspetti. Quindi, se... Ma è ancora oggi così, perché voglio dire oggi, si mentre io e lei stiamo parlando, un'agenzia batte che per strada a Napoli c'è ancora l'immondizia, ma danno la colpa al fatto che si sono messi in sciopero i netturbini. Però insomma Bertolaso ha detto, ragazzi miei, qui l'immondizia c'è ancora, l'emergenza è finita, però il degrado no. Allora le chiedo, ma c'è ancora puzza di camorra oggi in Campania? Io penso che il problema rifiuti è un problema che è organico ai poteri criminali, perché è troppo ghiotta, diciamo, è troppo ghiotta la torta, è troppo importante l'affare, ci sono troppi margini di guadagno perché la criminalità organizzata si disinteressi di questo settore. Probabilmente, secondo il mio modestissimo punto di vista, se posso dire, per aver colto sul campo un po' di tempo e aver affrontato questo fenomeno, parlo della immondizia, probabilmente si poteva e si potrebbe risolvere con altri sistemi il problema rifiuti, però ovviamente ci sono persone molto più capaci e titolate di me a svolgere questo problema. Beh, ma anche lei si difende bene, lo ha dimostrato. Allora io ringrazio il sindaco, l'ex sindaco di Cancello ed Arnone in provincia di Caserta, l'avvocato Raffaele Ambrosca. Vi invito ad andare a visitare il mio blog Guardi Ollati, perché di questa vicenda ho parlato e continuerò a parlare. Ve lo ricordo, Guardi Ollati sull'home page del Sole 24 Ore. Grazie in regia a Fabio Cantadori, in studio ad Elisabetta Fusconi e Roberto Carullo. Vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata.